Na radio al teatro. Ci troviamo qui nei camerini del Teatro Faranume insieme all'artista che tra poco si esibirà su questo palcoscenico per quello che è l'evento Jazz al Teatro. Ci troviamo al sesto evento di quello che è questa programmazione che inizialmente sembrava ardua anche a noi e per qualcuno era impossibile. In realtà è diventato un appuntamento fisso, un appuntamento per quello che riguarda almeno il jazz qui in questo quartiere. Oggi ci troviamo con un artista che in qualche modo ci stupirà attraverso la sua musica, ma vogliamo conoscerlo anche attraverso il suo pensiero, le sue parole, e per questo stiamo realizzando questa intervista. Ma come consuetudine qui a Un'altra Radio Roma, lascio il microfono all'artista per la presentazione e per dirci anche qual è il suo strumento. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Un'altra Radio Roma. Good evening to everybody. Il mio nome è Alessandro Gandola e suono il sassofono soprano. Anche se suono altri sassofoni e altri strumenti, ma da 10 anni a questa parte sono concentrato sul sassofono soprano. Bene Alessandro, raccontaci qualcosa di te, insomma soddisfa la nostra curiosità, raccontaci qual è la tua storia artistica, insomma qual è stato il tuo percorso, come ti sei avvicinato alla fine alla musica jazz e soprattutto perché? Come e perché mi sono avvicinato alla musica jazz? Questa è una domanda che per rispondere potrebbe portare via un sacco di tempo. Ad un certo punto io mi sono avvicinato alla musica jazz, ma poi dopo un tot di anni mi ci sono anche allontanato, almeno come circuito, come ambiente musicale. Mi sono allontanato moltissimo, ma in realtà era più un pensare di allontanarsi, perché per come io ho studiato e ho vissuto il jazz, in realtà non mi ci sono mai allontanato. Ancora ora, infatti, in un certo senso sono dentro in quella che viene definita musica jazz, anche se anche qui si potrebbero aprire lunghissimi discorsi su che cos'è il jazz. Sono talmente tante le differenze all'interno di quello che viene definito jazz che si potrebbe parlare veramente per tantissimo tempo, e ora qui non è il caso di farlo. Io ho iniziato a suonare quando ero ragazzino la chitarra, proprio come quando era ancora un giocattolo, e l'ho suonata per parecchi anni, l'ho studiata come da autodidatta. Sono arrivato al punto che io suonavo, dopodiché andavo a cercare sul libro degli accordi che accordi avevo fatto, ma non conoscevo la teoria musicale, al di là delle cose più semplici e basilari, fino a che non ho ascoltato John Coltrane, in particolare un pezzo, My Favorite Things, e quella è stata una folgorazione, un vero e proprio innamoramento. Il suo modo di suonare, quello che ho sentito, My Favorite Things, era una versione dal vivo, era strepitosa, credo una delle più lunghe che abbia mai fatto, un'improvvisazione potentissima. Io mi sono innamorato di quella potenza espressiva e ho incominciato a studiare jazz. Ovviamente ho dovuto cominciare a studiare la teoria musicale, anche se all'interno del jazz la teoria musicale di base è la stessa ovunque, ma non ho mai studiato in maniera, se vogliamo, americana, pattern. Cioè io sono partito con l'innamoramento di John Coltrane, ma non ho mai studiato John Coltrane, i suoi, quello che lui faceva esattamente. Io ho cercato di portare in quello che facevo, ho cercato di suonare con la stessa intensità emotiva, con la stessa potenza espressiva. Quello è stato il mio stimolo e che ho ancora dentro di me, anche se poi in realtà io dal jazz mi ci sono allontanato, perché ho fatto il primo album nel 94-95 pubblicato e ho avuto delle notevoli risposte dalla critica. Mi sono un attimino gasato su questa cosa e per cui nella pratica, andando per cercare di tagliare in poche parole, ho alzato il cachet del mio trio e alzando il cachet ho smesso di suonare. Già allora quello che adesso pare che sia peggiorato già c'era allora, questa era la situazione. E dopodiché devo dire che io scusate, non amavo neanche particolarmente l'ambiente classico del locale jazz, del club jazz, perché in realtà le esperienze erano che tu ti trovavi di fronte a persone che parlavano e bevevano, solamente le prime file, i primi tavolini erano dedicati ad ascoltarti. Non è una cosa molto gratificante. Per di più se sei pagato pochissimo. Insomma, morale, io nel giro di 2 anni mi sono allontanato dalla musica jazz, ho preso altre vie, perché la musica per me è sempre stata una via di ricerca anche personale, proprio una scuola di vita. E per 3 anni ho girato l'Europa portando un mio lavoro, musica, silenzio e meditazione, all'interno dei centri di ricerca interiore, dall'Italia all'Inghilterra. Era un momento di ricerca interiore anche per me, per cui mi muovevo all'interno di quel circuito, che ovviamente non aveva nessun riscontro sulla stampa, nessun articolo, niente. Io sono sparito dalla circolazione. Nel 98 ho fatto un album con questo lavoro che si chiamava In Meditation, addirittura con un altro nome, perché nella mia ricerca spirituale mi era stato dato un altro nome, per cui come Swami Deva Sangeetam ho pubblicato In Meditation e ho cominciato a seminare quella che avrebbe dovuto essere la mia carriera musicale. Cioè, intendiamoci, seminare nel senso degli indiani d'America, a far perdere le tracce di quella che era la mia carriera musicale. E niente, da lì poi ho attraversato diverse esperienze, diversi territori musicali, per cui la world music, dopodiché fino all'incontro con Giovanni Sollima, il barocco, la musica barocca, poi l'incontro con Anupam Shobhakar, i raga, e in mezzo l'incontro con la polifonia. Insomma, ho girovagato, mi è piaciuto e mi piace sperimentare territori musicali diversi, lontani dal jazz, ma in realtà io li ho attraversati mantenendo quello che per me è il valore della mia via nel jazz, quelli che sono i valori che mi hanno portato a studiare jazz all'inizio, che era la potenza e la capacità espressiva del sassofono di John Coltrane. Io sono ancora lì, cerco di esprimere E secondo me, secondo il mio modo di vedere e di sentire, è attraverso l'azione istintiva che c'è il massimo dell'espressività. Parlando spesso tra noi della radio, ci diciamo che abbiamo voluto puntare su questo progetto, ci ricordiamo soprattutto un progetto basato sulla qualità e non sulla quantità. Non si capisce perché quando si parla di qualità non ci possa essere anche la quantità. Quindi abbiamo voluto puntare su questo progetto, quello di costruire un po' un abito, no? Un abito a questo tipo di musica, che è quella del jazz, e creare un ambiente adatto come quello del teatro, trovando un grande riscontro da parte del direttore artistico e di tutto lo staff del teatro Faranume. E abbiamo così iniziato questa avventura. Abbiamo trovato anche un riscontro altamente positivo da parte di voi artisti, e questo ha fatto nascere in tutti noi della radio, ripeto, una curiosità, una domanda. Ma se attraverso quella che è la nostra radio fantasma abbiamo avuto una tale risonanza positiva, sia da parte del pubblico, ma anche da parte degli artisti, la domanda che ci siamo posti è la seguente: qual è la situazione dell'arte, arte musicale, a Roma? Sai, Gasperino, la situazione di Roma non è diversa, secondo me, dal resto d'Italia, anche se io negli ultimi anni purtroppo sono fuori da quelli che sono i circuiti dei concerti. Oggi, ma non solo oggi, come dicevo anche prima, ormai è da parecchio che è così. A parte che io, appunto, ho una... Come dire, la mia musica è una musica che è lontana da qualsiasi etichetta, per cui nel mondo di oggi ha una difficoltà in più, perché non essendo etichettabile non è vendibile, perché oggi la musica che gira è quella che è facile da vendere. Più è facile da vendere, più è vendibile. Io non ho un'agenzia, non riesco a fare concerti perché oggi all'interno dei festival ci arrivi solo se hai l'agenzia. A me non interessano i club che ti danno 100 euro perché mi sembra un insulto dopo tutta la vita, dopo tutto quello che ho fatto, ma non solo per me, proprio in generale. Nella tua domanda hai usato la parola arte musica, musica arte, e allora quello è un punto nella confusione proprio di oggi. Musica, arte. La maggior parte della musica che gira è musica prodotto commerciale, non è musica arte. L'arte è un'altra cosa. Oggi, nel mondo di oggi, c'è un uso assolutamente scorretto di quelli che sono i termini, i vocaboli, le parole, arte. Si potrebbe parlare ore su che cos'è l'arte. L'artista, su chi è l'artista. Oggi in televisione vedi un personaggio dietro l'altro e sono tutti definiti artisti. È veramente, si rischia di diventare tristi se si va a guardare queste cose. La situazione musicale dell'arte musica però c'è poco da fare, non è allegra. Io non riesco a suonare perché non ho un'agenzia. Non è una bella situazione, ma non è solo romana, è una situazione nazionale. Ci sono altri paesi dove la situazione è migliore da questo punto di vista. Per non andare troppo lontano, la Francia, ma poi c'è il Canada, mi sembra che lassù ci sia. Insomma, non siamo in una. Non navighiamo in buone acque, ma si potrebbe veramente parlare a lungo. Bisognerebbe fare una trasmissione solo su questo. Anzi, sarebbe interessantissimo fare una trasmissione per analizzare questo aspetto della realtà di oggi e della musica e dell'arte. Sai, Alessandro, spesso parlando con alcune persone che sono nel campo musicale, non solamente chi la musica la fa, anche chi la produce, chi in qualche modo cerca di renderla appetibile ad un pubblico. Anche parlando con queste persone ci siamo imbattuti su un punto, quello che spesso le grandi case discografiche, le etichette, si ergono a giudici della musica, giudicando ciò che è buono o quale lavoro è cattivo. Noi crediamo che in realtà, se veramente c'è un giudice, l'unico è il pubblico. Il pubblico sovrano, inteso come il popolo sovrano, cioè colui che ascolta un prodotto, se il prodotto è ritenuto buono, lo acquista, insomma lo valorizza e fa sì che questo possa in qualche modo essere pubblicizzato, no? Ma se gli spazi dove esibirsi, dove far conoscere la propria musica non sono poi così sufficienti, o comunque a volte sono situazioni scadenti, quali sono le reali possibilità per diffondere le proprie opere, a parte noi dell'Altra Radio Roma, naturalmente? Io credo che la musica sia giudicabile solamente in parte, nel senso che si può valutare se una musica è di qualità o meno, se è fatta bene o meno, ma poi in realtà la musica è un qualche cosa che piace o non piace, cioè tocca o non tocca, al di là. Voglio dire, è oltre il giudizio. Una musica piace o non piace. I giudizi, insomma, io quando salgo sul palco non salgo per far vedere che sono bravo, che faccio una musica buona e di valore. Io salgo sul palco per condividere delle cose, per condividere la mia musica, per condividere me stesso, non per far vedere quanto sono bravo. Sì, faccio un esempio, Alessandro, per essere più diretti, più chiari, per far sì che chi ci sta ascoltando da casa possa comprendere quello che tu voglia intendere. Qualche tempo fa ho trovato un parallelo dal mio punto di vista molto efficace su quello che è il vivere, il sentire, la vita di un musicista come di ogni altro artista e forse anche come di ogni altra persona. Un parallelo con un animale. Per me la natura è sempre maestra di lezioni, basta leggere attentamente e lì c'è scritto forse tutto. Insomma, l'animale è il pipistrello. Adesso non mi ricordo il termine esatto, ma il pipistrello emette ultrasuoni e attraverso il ritorno, il rimbalzo di questi ultrasuoni, lui è praticamente quasi cieco, ma attraverso il ritorno di questo suono lui definisce il mondo, ha un'immagine del mondo, percepisce il mondo attraverso il ritorno dei suoni che lui emette. Per un musicista è lo stesso, il paragone mi sembra perfetto. Noi creiamo musica, componiamo musica, la creiamo, la suoniamo, la mandiamo nel mondo. Se non abbiamo la possibilità di mandarla effettivamente nel mondo, se non c'è la possibilità che la nostra musica venga ascoltata e per cui ci sia un ritorno, di un feedback da parte di chi l'ascolta, noi non abbiamo la dimensione del mondo, siamo persi. Qui in radio, mentre organizzavamo questo evento con gli altri compagni di viaggio, abbiamo, come dicevo prima, voluto puntare su un discorso qualitativo. Quindi gli artisti che abbiamo scelto per tutti i nostri eventi sono artisti che a noi fondamentalmente prima dovevano piacere e poi si è pensato se era fattibile poterli portare qui al teatro, sia per le distanze che per quant'altro, anche per coincidenze di impegni. E quindi abbiamo ascoltato un po' molti artisti per poter scegliere a chi proporre questo progetto, tra cui anche abbiamo ascoltato le tue opere. Quindi noi abbiamo cercato di costruire questo evento cercando appunto un posto idoneo come quello del teatro e delle persone altrettanto idonee da presentare. Ma la domanda che voglio porti. Per te, Alessandro, cosa significa esibirsi questa sera in questo teatro? Allora, il trovare la possibilità di far girare la propria musica è una questione vitale. Non è solo... è veramente vitale. A tutti i livelli. Ovviamente, se tu fai girare la musica, qualcuno la può comprare, entri nei circuiti e riesci anche a sopravvivere. Ma non è solo quello, è proprio una questione di senso di vita. Se io faccio musica, ho bisogno, non solo per il portafoglio, che la mia musica giri, circoli, perché attraverso quello che mi ritorna io ho un'immagine del mondo, io creo la mia vita. E comunque, quali sono le possibilità per diffondere le proprie opere, la propria musica? Io credo che internet sia un territorio da esplorare in questo senso. Io ho iniziato un lavoro un anno fa, quando ho terminato il mio album blu, ho iniziato un'iniziativa completamente indipendente. Non sono riuscito a portarla a termine, ho dovuto interrompermi per una malattia, per un problema fisico serio che mi è accaduto a giugno, e adesso ci sto rimettendo mano a questa cosa. Comunque, internet è un territorio da esplorare. Quello che ti può permettere internet è di raggiungere direttamente, di tagliare un sacco di strutture, cioè praticamente da chi fa musica a chi l'ascolta. Questa è la grande potenzialità che c'è su internet. È un territorio da esplorare. Io ho fatto questo tentativo, la preproduzione sono riuscito a pagarmela organizzando la prevendita al mio piccolo numero di fan e di amici. Mi sono dovuto interrompere, mi sono anche reso conto che io quell'avventura non ero in grado di portarla fino in fondo, perché quelle sono... è una realtà, quella di internet, in cui tu ti devi essere presente, continuamente presente, e richiede un sacco di tempo, e non mi rimane più il tempo per creare, per comporre, per fare musica, per cui forse lì c'è bisogno di una figura nuova, di figure professionali nuove che affiancano il musicista e si occupano della vendita del suo lavoro, ma con un rapporto più diretto, più personale, non come l'agenzia che ha decine di musicisti o l'etichetta che ha centinaia, migliaia di artisti da vendere, ma in un rapporto più vicino, anche perché in una dimensione più ridotta il numero di copie che devono essere vendute per ricavarne un guadagno utile sono molto, molto, molto di meno. Questa è una grossa potenzialità. Ovviamente parliamo di vendita della musica. Poi l'attività concertistica, che comunque è sempre fondamentale per un musicista reale che vive di musica, quello è tutto un altro problema, a cui sicuramente la vostra iniziativa sta cercando di dare una risposta, e mi sembra anche valida come risposta. E per quanto riguarda esibirti questa sera in questo teatro? Beh, esibirmi questa sera in questo teatro è un, come dire, rompe il deserto. Io vengo da un periodo, anche ho avuto anche problemi fisici, ma non è stato l'ultimo, insomma, vengo da 2 o 3 anni di scarsissima attività concertistica, per cui suonare questa sera in una situazione come questa è una bellissima possibilità di suonare comunque in un ambiente dove la musica è ascoltata, non come dicevo prima negli ambienti, nei locali dove il 90% delle persone beve e chiacchiera. C'è veramente l'ascolto, la dimensione del teatro è quella, la musica è ascoltata. Dopodiché ovviamente c'è anche il fatto dello streaming, che è una possibilità enorme, perché ti mette in comunicazione con tutto il mondo. Io questo lo sento come una grande possibilità, e spero che sia solo la prima occasione per poter vivere questo tipo di esperienza. Ti faccio una confidenza. Io spesso quando ascolto una musica, un brano, sono colpito da delle emozioni, da delle sensazioni. E se queste emozioni, sensazioni possano essere paragonabili o comunque sono le stesse che ha pensato l'artista nel momento in cui ha scritto quest'opera, non lo so, però so che io le ricevo e so quelle che mi suscitano in me. La domanda che voglio porti è la seguente: quali sono in realtà le emozioni che provi ogni volta che suoni la tua musica? E soprattutto, ogni volta che un pezzo è finito, a cosa cerchi di arrivare? Sai, quando suono, come già un pochino dicevo prima, non è un'esibizione, ma è una condivisione. Allora, non è che c'è un cercare di raggiungere qualche cosa, ma è un cercare di condividere, cercare di esprimere me stesso e di condividere delle sensazioni, delle emozioni e di toccare le persone che ascoltano attraverso un processo, se vuoi, di empatia. A quello io miro, a quello cerco di arrivare nel momento in cui eseguo una performance o un concerto. Con Blu in particolare, con l'album che questa sera eseguirò in parte durante la performance, in particolare, dicevo, cerco di esprimere, voglio condividere quelle che sono le mie sensazioni e le mie emozioni di fronte alla meraviglia della natura e della vita. Cioè l'emozione di essere dentro in questo mistero che noi chiamiamo vita, in questa immersi in questa natura che in alcuni momenti offre degli spettacoli che veramente ti lasciano senza fiato, come di fronte a un tramonto spettacolare in luoghi, insomma, quelle situazioni dove mancano le parole per essere descritte e salgono le lacrime agli occhi. Quelle sono sensazioni ed emozioni che io con le parole non sono in grado di esprimere, cerco di esprimere con la musica, appunto. Visto che il tempo si sta visto che il tempo che abbiamo a disposizione, che ti abbiamo rubato prima dell'inizio di questo concerto, sta concludendo, anche perché fra poco dobbiamo lasciarti tranquillo a pensare alle note che dovrai fare, voglio porti l'ultima domanda. Noi quattro di Un'altra Radio Roma abbiamo in realtà investito moltissimo in questo progetto, sia di energie, sia il nostro tempo personale, sottraendolo ai nostri affetti a volte o altre situazioni. E poi soprattutto perché ci abbiamo creduto, abbiamo voluto puntare su questo tipo di progetto. E abbiamo, come dicevo prima, puntato su quella che è la qualità e non sulla quantità. Secondo te, che cosa andrebbe fatto per avvicinare maggiormente la gente a questo tipo di evento? Sai, noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo messo lo streaming, la pubblicità, insomma, vorremmo che la gente fruisse gratuitamente, perché poi tutto quello che facciamo è senza pubblicità, a questo che è sicuramente, reputo, un ottimo evento. Comunque, lasciate il microfono. Guarda, purtroppo è una domanda che mi mette in difficoltà, perché l'avvicinare le persone a questo tipo di iniziative, come si fa, come fare? Qui è un problema proprio a monte di educazione, di disinformazione. Cioè siamo in una situazione veramente pessima, non so proprio cosa dire, usare tutti i canali di comunicazione possibile, che altro? E adesso vado a fare quello che io posso fare, cioè quello che cerco di fare ogni volta che suono in pubblico, cerco di dare il meglio di me stesso, cerco di condividere me stesso, le mie sensazioni, cerco di esprimere delle cose al meglio. Questo è quello che in questo momento posso fare e vado a fare. Ciao a tutti e buon ascolto. Bene, bene, bene. Grazie Alessandro, grazie per il tempo che ci hai dedicato. E come dici tu, a tutti quanti buon ascolto. Buon ascolto con Blue Performance di Alessandro Gandola. Ricordate, lo state ascoltando esclusivamente sull'onda fantasma di Nartra Radio. Sta per iniziare lo spettacolo, si prega di spegnere i cellulari. Signore e signore, Nartra Radio Roma, in collaborazione con il teatro Faranuma, presenta Jazz al Teatro. To you the season of Jazz at the Theater. In collaboration Tamia Panume, Nartra Radio Roma, per scuola prazzisgiva da Faranuma, Cetavio Jazz al Teatro. A jazz artist under Creative Commons license. We hope you a nice evening. Nartra Radio Roma, in diretta radiofonica dal Teatro Faranume di Ostia Lido Roma, trasmette Jazz al Teatro. Nartra Radio Roma, in collaborazione con il Teatro Faranume, presenta Jazz al Teatro. Nartra Radio Faranume. Jazz al teatro, Nartra Radio Roma, Jazz al teatro, Nartra Radio Roma, Jazz al teatro, Nartra Radio Roma. Allora ti dicevo, ci vieni al teatro a sentire il jazz? Jazz al teatro? E di che si tratta? Si tratta dell'evento curato da Nartra Radio Roma e si svolgerà al Teatro Faranume. Ne parlano ormai tutti, ma in che mondo vivi? Vabbè, ma lo sai te, qui insomma, a gente di... Ma perché jazz al teatro? Perché noi portiamo un altro modo di vivere la musica, solo Creative Commons. Vabbè, allora jazz al teatro, musica sotto licenza Creative Commons, qui al Teatro Faranume. Bravo, bravo, oh, tutti lunedì alle 21. Jazz. For you, jazz for us. Music as Bambera. Noi siamo pronti per goderci questo sesto evento di jazz al teatro. Ecco che è partito per voi tutti. Blue Performance Improvisation, qui dal Teatro Faranume.

l'evento è partito e direi che con Blue Performance è partito realmente bene, vero Cocot? Molto molto bene, un saluto a tutti quanti. Thank you. te che ci supporti sempre. Qui ci manchi un guerriero contro questa invasione. Che ho fatto fino ad ora sono tutti contenuti nell'album Blue, che non è ancora pubblicato. Ho iniziato questo percorso indipendente ormai un anno fa, poi ho dovuto interromperlo, come dicevo prima nell'intervista. Anzi, i primi due pezzi erano in Blue, anche il terzo, ma nel terzo si possono trovare anche le risonanze, per chi mi conosce da un po', come nel prossimo dell'album che ho pubblicato prima, Astrolabio Animo, con Giovanni Solli. Ma è stata un'esperienza che sicuramente mi ha arricchito, e nel pezzo passato e nel pezzo che vado ora, chi mi conosce può sentire chiaramente l'arricchimento che ho avuto dall'incontro con Giovanni. Ora c'è anche un carissimo amico che sarà qui sul mio palco ora, anche se è dentro, registrato nel computer. Introdurrà il prossimo pezzo la voce di Rodolfo Montuoro, un carissimo amico, un poeta, una persona che stimo e amo moltissimo. Il sogno di Psiche, la poesia che lui ha recitato per me per il mio album, e ora il pezzo inizierà proprio con la sua voce e i suoi versi, nei quali io l'ho messo sull'album perché mi rispecchio veramente tanto. Grazie ancora, buon ascolto. Sta ripartendo Alessandro Gandola con il suo concerto, l'avete ascoltato, Gandola, lo state ascoltando, sta ripartendo con il suo mitico concerto che ci sta facendo flashare, come si dice a Roma. Veramente uno spettacolo da non perdere. Nembi di ondini mi fanno strada. Le loro ombre gocciolano macchie imprendibili. Macchie e squarci. Macchie e squarci. Cerco di posare i piedi sugli squarci più chiari. Cerco di posare i piedi sugli squarci più chiari. Cerco di posare i piedi sugli squarci più chiari in un continuo oscillare dei punti di vista. Cerco di posare i piedi sugli squarci più chiari in un continuo oscillare dei punti di vista. Se calpesto le macchie, anch'io mi sciolgo. Thank you. Thank you. Grazie. Sempre grande il maestro Gandola, Gandola, che si sta esibendo, e l'atmosfera elettrizzante, anche perché la sua musica è una musica molto, molto, molto psicadelica. Ok, finisco il primo tempo con appunto Blu. Questo è un episodio di un piccolo episodio di polifonia. Una delle cose che ho incontrato negli ultimi anni è mi piace farla con il mio sassofono, per cui Blu. Grandioso, Blu, il prossimo pezzo che sta per suonare il maestro Gandola. Ascoltiamocelo su Nartra Radio Roma. Radio Roma. Radio Roma. Thank you. grande Gabriele. E... è entrato in pausa. Sta in pausa il nostro artista, signor Alessandro. Per 5 minuti saliremo, andremo a berci un tè caldo. Feed me, baby. Feed me, baby. Can't hold me back. Originale, originale, originale. Nata Radio Roma, Nata Radio Roma. Originale, originale, originale. Nata Radio Roma, Nata Radio Roma. Originale, originale, originale. Nata Radio Roma, Nata Radio Roma. Nata Radio Roma. Nata Radio Roma. Solo su un'altra radio Roma, musica originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale. Che secondo me stiamo veramente sotto. Sì, Campo sta sotto treno. Se riesce ad aprire il palco, basta che spingiamo il bottone. Bravo, bravo. E Gandola ritorna. 1, 2, 3. Il concerto è tornato. Olè, Nartra Radio Roma non sta più in coma. E allora, ecco qui, torniamo direttamente dal Teatro Faranum, via Domenico Baffico 161, con Alessandro Gandola, sax soprano. Arrivo di nuovo. Questo è un brano. Sì, facciamoglielo spiegare a lui. È diverso, anche se ha una cosa in comune. Ah no, prima di tutto, attenzione, mi sono dimenticato, quei rumori di ambiente che si sono sentiti e quel canto ritmico. L'ambiente era il mercatino di serale di Juhu a Bombay. È una spiaggia enorme, grandissima, e tutte le sere al tramonto diventa un formicaio di indiani che mangiano, bevono, urlano, fanno di tutto. E la voce che cantava era Anupam Shobhakar, un mio carissimo amico, oltre che grande maestro di Sarod. E niente, così, non so se dall'India qualcuno sta ascoltando, ho avvisato gli amici, ma solamente ieri sera tardi, per cui non lo so se l'hanno ascoltato, se hanno riconosciuto l'ambiente, chi lo sa. Comunque questo ci tenevo a dire, che in India andrò a finire anche questo secondo tempo, ma ne parliamo dopo. Ora questo pezzo, come dicevo, ogni volta è diverso, a parte lo sfondo e il ritmo che è tenuto da un suono naturale, e io lo chiamo dedicata, è un brano dedicato a tutte le persone che mi hanno aiutato nei momenti difficili e a quelle. musica a svansverà qui su un'altra Radio Roma. Grazie al maestro che ci ha illuminato e ci ha raccontato qualcosa che sicuramente noi non sapevamo. Ma riparte il quarto con A Lifetime. Riparte il viaggio. Ma l'hai fatto il biglietto? Destinazione paradiso. Thank you. provo a rischiare ancora il computer, non so. Mi sono preparato a delle cose che vorrei suonare adesso. Questo è di nuovo Iemanjá, una tradizionale brasiliana. Iemanjá è una delle due dee dell'acqua, per cui è un po' simile alla nostra figura di Maria, al femminile. Io sono stato in Brasile 10 anni fa, sono stato 3 mesi e un po' di settimane in una valle di Pací, e andavo in giro con il microfono a registrare, a improvvisare, a suonare, e ho registrato quella che era Claudia, una delle mie guide, mi ha fatto questa canzone che è Iemanjá. Canto loro tradizionale, Na radio al teatro. C'è di nuovo l'acqua. Iemanjá, ensina a navegar, Iemanjá, ensina a navegar, Vale, lo faccio da solo. Thank you. Bene, bene, bene. Grazie. Prego, caro Alessandro, è stato veramente un piacere. Prego, accendiamo le luci della sala e evitiamo che ci sia il... Allora, veramente la gente ringrazia Alessandro. Ringrazio Alessandro per quello che è stata l'emozione che ci ha fatto provare quest'oggi, per tutto quello che... E siamo riusciti a vivere attraverso questo evento che, ricordo, è stato trasmesso ancora una volta attraverso la frequenza fantasma dell'Artra Radio Roma. Ascoltate gli applausi calorosissimi del pubblico che quest'oggi, anche quest'oggi, ha partecipato, e sicuramente il maestro. C'è una cosa che non esiste ancora, va bene? Sì. Sì, ci va bene, se non esiste a noi ci va bene, perché tutto quello che abbiamo sentito fino adesso che esisteva, quindi i ragazzi della radio vivono con questo, esisteva, questo vuol dire che c'è. Sì, io non so cosa vado a fare, adesso vediamo. Vai, vai, sei tutti noi, caro Alessandro, noi qui della radio ti sosteniamo, ti abbracciamo e ti ringraziamo. Tutti insieme a fare so dei problemi con la tecnologia, è che cerchi un altro concerto di farlo, ma... qua. Sì. E Kempo vi ha vietato con la sua canzone. No, mi trovavo con Giovanni i soldi, ma si diceva tavola bianca, tavola rasa, era tutto bianco, adesso incominciamo a suonare. Tabula rasa, esatto. Non è che era imparato da lui, lo facevo già. Lo faceva già senza saperlo, Alessandro, vedi? Allora, Alessandro, dai che ci emozioni ancora con questo nuovo brano che ancora non esiste, ma che è trasmesso in esclusiva qui al Teatro Faranume, suonato, e lo potete ascoltare in esclusiva voi attraverso la frequenza di www.unartraradioroma.blogspot.com. Thank you. Grazie Alessandro, grazie per quello che ci hai fatto provare. Nartra Radio Roma ringrazia Alessandro Gandola per quello che ci ha donato oggi. Io non vi ho ringraziato, ma scusate, sono un attimino con la testa lì. Sulle note. Vi ringrazio tantissimo, è una cosa non solo bella, anche notevole quella che avete iniziato a fare. E io spero di esserci ancora e spero che questa cosa vada avanti comunque. Grazie. Grazie. Bene, cari ascoltatori, avete sentito i ringraziamenti di Alessandro. Mi piace questo progetto di Nartra Radio de Roma. Si dice così. Si dice così. Ragazzi, siamo partiti. Ragazzi, siamo partiti. Tidi. Bella regà. Bella regà. Ciao a tutti ragazzi. Buonasera a tutti. In Artra, Radio Roma. Che emozione. Sono qui pronto per lanciare nuovi pezzi. Pronto per darvi un altro po' di roba. Perché noi non siamo de pelastica. In Artra, Radio Roma.